Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi abbiamo sentito, come persone informate sui fatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Interno. Le audizioni si sono svolte in un clima di massima distensione e di massima collaborazione istituzionale. Così ha parlato oggi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, la procuratrice di Bergamo, Maria Cristina Rota, dopo aver sentito nell'ambito dell'inchiesta, appunto, della procura di Bergamo, ma in trasferta a Roma oggi, l'inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, due zone della Bergamasca, con tutta poi la tragedia che ne è conseguita, così ha parlato, dicevo, dopo aver sentito oggi, come persone informate sui fatti, il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra dell'Interno Lamorgese e il Ministro della Salute Speranza. Quindi ha detto che è stato un colloquio sereno, proficuo, che tutto è stato chiarito, e approfondiremo naturalmente questo tema, questa vicenda così importante, visto che si sta cercando di capire qual è stata la catena di comando, quali sono le responsabilità tra Regione Lombardia e Stato centrale, quindi il governo. Però in questa ultima puntata della settimana ci occuperemo di moltissime altre cose, per esempio anche del fatto che sta arrivando l'estate, il 21 giugno, e capiremo anche quali sono le tendenze. Tutti stanno sognando naturalmente le vacanze, c'è chi può, chi non può, chi ha paura di andare in vacanza, chi non ci va per mancanza di soldi, chi invece ha già prenotato, ma soltanto una minoranza. Ci faremo dare una panoramica, insomma, sulle tendenze, sugli orientamenti, le intenzioni delle italiane e degli italiani rispetto a quest'estate. Poi molti altri temi che non mi sto subito ad anticipare. Vi dico però che potete, come sempre, commentare le notizie principali della giornata sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso i WhatsApp al solito numero, che è il 349-238-6666. Prima quindi di tutti gli approfondimenti con gli ospiti, come sempre sintesi della giornata. I dati sul coronavirus in Italia: i casi positivi sono sotto la soglia di 30.000 e i ricoverati nei reparti Covid scendono sotto quota 4.000. 56 morti in un giorno, e secondo il monitoraggio del Ministero della Salute è bassa la criticità, ma in alcune zone ci sono casi elevati. L'inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, sentiti Conte e i ministri Lamorgese e Speranza. Tutto chiarito, dice il Presidente del Consiglio. Stati Generali, domani la giornata degli incontri internazionali a Villa Pamphili, 700 i militari schierati. La tragedia della Grenfell Tower nel 2017, le multinazionali coinvolte propongono per ognuna delle 72 vittime un risarcimento di 68.000 sterline. Non le accetteremo, dice la legale della famiglia di Gloria Trevisan, che morì nel rogo londinese con il suo fidanzato. Incidente nel bolognese, prima vittima in monopattino in Italia, indagata una donna per omicidio stradale. L'identikit del turista post-Covid-19, vacanze per un italiano su due, solo il 5% ha già prenotato, fra chi rinuncia il 25% ha paura, il 16% non ha soldi. Calcio, la Serie A cambia la norma, anche in caso di calciatori positivi il campionato non si fermerà. Stasera torna la Coppa Italia maschile. Partiamo quindi, come sempre, dai dati sul coronavirus in Italia forniti dalla Protezione Civile. Sono 56 le vittime di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I nuovi contagi sono 393. Sono questi i nuovi dati del bollettino della Protezione Civile. In Lombardia l'epidemia non accenna però a frenare. Dei quasi 400 tamponi positivi rilevati oggi, infatti, la maggior parte è nella regione, con 272 nuovi positivi, il 69% dei nuovi contagi. Anche se il dato assoluto è alto, il rapporto tra casi individuati e tamponi da una parte e persone testate dall'altra è molto basso e resta al minimo. Oggi sono stati fatti 80.000 tamponi, ieri 52.000, e il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di un malato ogni 494 tamponi fatti, lo 0,2%. Per quanto riguarda le altre regioni, 31 casi in Piemonte, 33 in Emilia-Romagna, 27 nel Lazio, 22 soltanto nel focolaio del San Raffaele. In terapia intensiva si trovano 236 persone, 9 meno di ieri. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E secondo il Ministero della Salute, in quasi tutta la penisola sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio, e ciò evidenzia come l'epidemia in Italia di Covid-19 non sia ancora conclusa. Lo evidenzia appunto il monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, che riporta i dati dall'1 al 7 giugno. Molti dei casi notificati in questa settimana, verosimilmente, si legge, hanno contratto l'infezione 2-3 settimane prima, ovvero tra la prima e la seconda fase di riapertura, quindi tra l'11 e il 25 maggio. Complessivamente il quadro generale dell'impatto dell'infezione in Italia rimane a bassa criticità, dice il monitoraggio, tuttavia persistono in alcune realtà regionali un numero di nuovi casi segnalati ogni settimana elevati, seppure in diminuzione, e in alcune parti del paese la circolazione del Covid-19 è ancora rilevante. E sui test sierologici effettuati da qualche settimana dalla Croce Rossa su un campione di 150.000 italiani selezionati dall'Istat, di cui abbiamo parlato più volte qui a Effettonotte, il commissario all'emergenza Arcuri parla delle adesioni al di sotto delle aspettative. Le ragioni per cui si stenta un po' a sottoporsi a questo test credo che siano insite nell'ansia, nella paura del virus che ha colpito legittimamente e giustamente tutti i nostri concittadini. Questa ansia e questa paura dobbiamo suggerire a chi è richiesto di fare il test di superarla, anzitutto di nuovo nel loro interesse. E da lunedì scattano intanto le nuove aperture. Lunedì riapriranno le aree giochi e i centri estivi anche per i bambini da 0 a 3 anni e le sale scommesse. Via libera anche per cinema, teatri e spettacoli all'aperto, con 200 spettatori al chiuso e fino a 1000 all'aperto. I corsi professionali inoltre potranno essere svolti in presenza. I viaggi all'estero riprenderanno gradualmente. Se le crociere restano sospese fino al 14 luglio, oltre alla ripresa dei voli nell'area Schengen, da martedì si potrà andare anche in Albania e nei Balcani. Per un mese, fino al 14 luglio, invece, ancora stop per discoteche, anche all'aperto, fiere e congressi. Nessun via libera anche per il calcetto e gli altri sport da contatto amatoriali, la cui ripresa, inizialmente prevista, slitta ora al 25 giugno, compatibilmente alla situazione epidemiologica. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi l'inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. Sono stati sentiti oggi dai PM della Procura di Bergamo, in trasferta a Roma, il Presidente del Consiglio Conte, e la Ministra dell'Interno Lamorgese e il Ministro della Salute e Speranza. Tutto chiarito, ha detto il Presidente del Consiglio, uscendo da Palazzo Chigi, e tra poco ci sarà modo di approfondire decisamente questa notizia. Gli Stati Generali, Villa Pamphili è pronta a Roma per l'inizio domani, ma molti degli interventi agli Stati Generali saranno in videoconferenza. L'appuntamento, come sapete, è voluto dal Presidente del Consiglio Conte, si adegua ai tempi del Covid e vede nella prima giornata, cioè domani, la partecipazione dei vertici dell'Unione Europea e delle più importanti istituzioni economiche internazionali via web, naturalmente. Insieme ai ministri che siederanno con il Presidente del Consiglio nella Sala degli Stucchi ci sarà però il Governatore di Banca Italia, Visco. L'appuntamento è off limit, come si dice, per i giornalisti. Potrebbero avere il via libera all'accesso solo in occasione della conferenza stampa finale o di alcuni punti stampa al termine delle giornate di lavoro. L'atmosfera dovrebbe essere così simile a quella di un seminario con spazi di approfondimento. Domenica sarà una giornata di pausa, gli incontri poi riprenderanno lunedì dopo una relazione di Vittorio Colao sul rapporto elaborato dalla sua task force. Avranno inizio i colloqui con le parti sociali, poi andrà avanti appunto per 8 giorni in totale i Stati Generali, e ci sono almeno 700 militari schierati, almeno così per la prima giornata. E ieri sera è stato approvato il Family Act, ne abbiamo parlato proprio qui in Effetto Notte, in presa diretta, il disegno di legge che delega il governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Mi auguro che l'assegno universale già la settimana prossima si inizierà a votare in commissione, ha detto la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Una riforma delle politiche per la famiglia che punta sulla parità di genere anche all'interno del nucleo familiare per incentivare il lavoro femminile soprattutto al sud, riordinando la normativa sui congedi parentali con almeno 10 giorni di congedo per i neopapà, ma anche con un assegno universale mensile per ogni figlio secondo gli indicatori ISEE, detrazioni fiscali per le spese dedicate all'istruzione, aiuti alle mamme lavoratrici. Sono alcuni degli interventi previsti dal Family Act varato dal Consiglio dei ministri, ma i tempi per i decreti attuativi, ricordiamolo, sono lunghi: 12 mesi per l'assegno universale e 24 mesi per il riordino dei congedi, gli incentivi al lavoro femminile e gli aiuti per la formazione. La delega prevede un periodo minimo non inferiore ai 2 mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio e un congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio, a prescindere dallo stato civile o di famiglia. E per andare ai colloqui con i professori è previsto un permesso retribuito di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo di coronavirus all'estero. La prima ondata di contagio del Covid-19 ha superato il suo picco in tutti i paesi europei, tranne in Polonia e in Svezia, ma la pandemia non è finita e previsioni ipotetiche indicano che un aumento dei casi è probabile nelle prossime settimane. Così scrive il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Intanto l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice, fa sapere che non c'è la garanzia che sarà trovato un vaccino. E poi esprime una preoccupazione. La pandemia di Covid-19, dice, sta accelerando nei paesi con basso o medio reddito. Qui ci preoccupano le categorie che già normalmente hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari, cioè madri, bambini e adolescenti. E parliamo anche della tragedia del 2017 a Londra della Grenfell Tower, un risarcimento di 68.000 euro per ognuna delle 72 vittime. Una cifra che non accetteremo mai, dice l'avvocata Sandrin, che tutela nel processo per la tragedia londinese del giugno 2017, in cui morirono 72 persone nel rogo. La famiglia assiste la famiglia di Gloria Trevisan, 26 anni, morta nel rogo insieme al fidanzato Marco Gottardi, 27 anni, due giovani ingegneri veneti. Dagli Stati Uniti arriva questa notizia: sfidando la forte opposizione dei sindacati di polizia, il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha firmato quello che ha definito il pacchetto di riforme della polizia più aggressivo nel paese, per fare in modo che gli agenti rendano conto meglio del loro operato dopo l'ondata di proteste per la morte di George Floyd. Il pacchetto prevede che la stretta al collo che ha ucciso Floyd, già vietata a New York, diventi un reato penale punibile con una condanna sino a 15 anni di prigione. Di nuovo in Italia con la cronaca: è morto oggi a Bologna il 60enne scontratosi con un'auto ieri a Budrio mentre circolava in monopattino. Si tratta della prima vittima in Italia in monopattino, indagata per omicidio stradale la conducente dell'auto. E poi le vacanze. Poco più della metà degli italiani, 51%, ha deciso di andare in vacanza nei prossimi mesi, anche se solo il 5,5% ha già prenotato. Ma di quei 25 milioni di connazionali che non partiranno, che sono il 49%, quasi 8 milioni non lo farà per scelta, ma perché fermato da ragioni economiche. Questo è l'identikit, insomma, del turista post-Covid-19 che emerge da un'indagine nazionale realizzata da Demoscopica per conto del Comune di Siena, e approfondiremo sentendo direttamente il presidente di Demoscopica. Ci sono vari dati interessanti. Per chiudere lo sport, 50 anni fa, il 17 giugno 1970, si giocava quella che è passata alla storia come la partita del secolo. Italia-Germania 4-3, semifinale dei campionati mondiali, vinta dagli azzurri e supplementare dopo un susseguirsi unico di emozioni. Una partita di calcio, certo, ma anche molto di più, come ci racconterà domenica il nostro Dario Ricci nel reportage in onda, appunto, domenica alle ore 8:15, e con un'anticipazione. Con il segno scappa Schultz, entra in questo momento in aria, traversone, rete, ha segnato ancora l'Italia, Rivera ha segnato ora per l'Italia, 4-3 per l'Italia. 17 giugno 1970, stadio Azteca di Città del Messico, è Italia-Germania 4-3, la partita del secolo e al tempo stesso molto più di una partita. È entrato in quell'anno il nostro paese col trauma della strage di Piazza Fontana e il pallone d'oro a Gianni Rivera sotto il braccio e sull'orlo dell'abisso degli anni di piombo. E proprio la Germania sfregiata dal muro di Berlino, ma già allora cuore economico d'Europa, è la destinazione di tanti nostri migranti, soprattutto da quel sud che proprio dal calcio e dallo scudetto del Cagliari di Gigi Riva ha ricevuto un insperato impulso d'orgoglio. Eccolo allora, Italia-Germania 4-3, che da partita diventa festa di popolo, leggenda, mito, fotografia di un paese com'era allora, come oggi e come sarà magari domani. E allora proprio l'abbiamo chiesto a loro di raccontarcela, agli italiani, a chi c'era quella sera inchiodato davanti alla TV, a chi quella partita se l'è sentita raccontare e a chi un giorno la racconterà. Ho il ricordo di mio padre che dice sempre: io Italia-Germania 4-3, tutti i gol supplementari, l'ho vista con te in braccio, cullandoti per farti dormire. Ero a casa di un mio amico, io e lui, che ogni gol che segnavano l'Italia saltavamo sulle poltrone. Visto che io avevo mio papà e mio fratello che erano emigranti in Germania, allora vincere contro la Germania per me è stato come un liberarmi di un qualcosa di speciale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sarà una partita molto indicativa per come potrebbero essere poi le altre, perché è la prima, però l'importante è che i giocatori siano in grado di sostenere i 90 e magari anche di più, no, ma forse i supplementari hanno deciso di non farli. E questo è Rivera, calciatore storico del Milan, perché riparte il calcio, almeno quello maschile, visto che quello femminile invece ha deciso la FIGC che non parte il campionato. Minuto di raccoglimento oggi, di silenzio in mezzo al campo, prima di Juventus-Milan, che è, la partita è in corso. Ce lo racconta Carlo Genta. Come è iniziata, Carlo? E soprattutto, Roberta, diciamo, sì. Allora, io ti racconto in diretta il rigore di Cristiano Ronaldo che parte in questo momento, tira palo per Cristiano Ronaldo, siamo al sedicesimo, siamo entrati in un momento iconico. E diciamo che il lockdown forse l'ha un pochino impigrito, l'ha un po' arrugginito? No, diciamo che abbiamo avuto un gran culo perché abbiamo raccontato un episodio. Hai visto? Un episodio. Ma è tutto studiato, in diretta, avevo capito che era il momento giusto, sì. Tra l'altro, rigore decretato con un altro grande classico del nostro calcio, e cioè con il VAR da orsato per un fallo di mano di Conti. E siamo sullo 0-0, 17 minuti di questa partita. In questo momento c'è orsato che potrebbe, forse ha deciso di espellere un giocatore del Milan. Insomma, siamo tornati al calcio con tutte le sue componenti, salvo il pubblico, che oggi ovviamente non c'è a Torino. Però già in questi primi 16 minuti in cui la Juventus ha più o meno dominato, e ripeto, ha preso un palo pochi istanti fa con un rigore di Ronaldo, stiamo vedendo una partita di pallone. Noi, come credo milioni di italiani, domani scopriremo quanti, ma immagino tantissimi, di fronte a questa partita che è diventata un po' un simbolo, perché fatalmente confermo che c'è un'esclusione di un giocatore del Milan nel prossimo collegamento di Drocchi. Comunque Milan in inferiorità numerica, ricordo 1-1, il risultato della partita di andata ormai preistorica, perché è stato giocato un sacco di tempo fa. Però insomma, stiamo vedendo noi e milioni di italiani, ripeto, una partita di pallone, il calcio che ritorna, lo sport che ritorna, ed è in qualche modo altamente simbolico, come raccontavamo ieri, Carlo Genta. Poi ci aggiorniamo allora naturalmente per come procede questa partita nel corso della puntata. Grazie al nostro Carlo Genta, avete visto che tempismo proprio nel momento in cui calciava Ronaldo, anche se non è andata bene, almeno dal punto di vista della Juventus. E poi naturalmente ricordo che c'è stato all'inizio un minuto di raccoglimento e di silenzio in mezzo al campo prima di Juve-Milan, in omaggio appunto a tutte le vittime del coronavirus. Fine della sintesi della giornata, in modo che tra poco, dopo la viabilità, possiamo cominciare ad approfondire i temi con gli ospiti. 349-238-6666 per i vostri messaggi via WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Nord. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi subito da voi, Roberta Giordano, ultima puntata della settimana e poi anche fino al 22 giugno, nel senso che poi ci sarà comunque Effetto Notte, ma visto che l'azienda mi chiede di fare una settimana di vacanze, visto che ho tante ferie arretrate, vi affido alla mia collega Furlanetto. Però intanto addentriamoci dentro la puntata di questa sera, iniziando da un argomento naturalmente molto molto importante, che oggi ha avuto anche, diciamo, una ulteriore rilevanza. Intanto i vostri messaggi. Forza Milan, anche se sono vicentino, dice Davide Davide, no, dai Davide Battigolia, questa è l'esortazione, mentre invece una ascoltatrice scrive al 349-238-6666: sono molto arrabbiata del calcio femminile che non ha ricevuto nessun aiuto, che i tromboni del maschilismo vogliono ignorare, non si parla, vero? L'ho appena citato, ho detto che il calcio femminile purtroppo non parte, la FIGC così ha deciso perché non ci sarebbero le condizioni a un punto di vista della sicurezza, e sapete che comunque rimane sempre un po' la Cenerentola nonostante il campionato del mondo che abbiamo visto che ci ha dato tante emozioni, quello femminile. Oggi abbiamo sentito, come persone informate sui fatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Interno. Le audizioni si sono svolte in un clima di massima distensione e di massima collaborazione istituzionale. Così ha detto quindi la procuratrice di Bergamo, Maria Cristina Rota, a proposito dell'inchiesta appunto della procura di Bergamo, della quale vi ho dato man mano in queste settimane i vari aggiornamenti insieme agli ospiti, relativa, come ormai sapete, alla mancata istituzione della zona rossa nei due comuni di Alzano Lombardo e Nembro, nella Val Seriana, nella Bergamasca, mancata chiusura con tutte le conseguenze terribili, drammatiche che ha avuto appunto in tutta la zona del Bergamasco. Oggi per questa inchiesta è stato un giorno particolarmente importante perché, come sentivate appunto dalla procuratrice di Bergamo, sono stati sentiti come persone informate sui fatti, dopo aver sentito nei giorni scorsi i vertici della Regione Lombardia, quindi il presidente Fontana e l'assessora Guelf Gallera, sono stati sentiti con trasferta dei PM a Roma il presidente del Consiglio Conte, che è stato addirittura 3 ore con i PM, e poi la ministra dell'Interno Lamorgese e il ministro della Salute Speranza. Quindi oggi appunto è stata una giornata in cui, ha detto la procuratrice, si sono chiarite delle cose, c'è stato un clima sereno. L'obiettivo di questa inchiesta è quella di chiarire tutta la catena di comando, che evidentemente non ha funzionato, visto che poi da lì è partito un focolaio enorme, e capire ovviamente le eventuali responsabilità. Ne parliamo con la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore, che sta seguendo dall'inizio questa inchiesta. Cara Sara. Sì, ciao, buonasera. Buonasera Sara. Allora, fra le altre cose sappiamo che c'è un continuo rimpallo di responsabilità tra Regione Lombardia e Governo, vari botte e risposte, accuse reciproche tra esponenti della maggioranza di Governo e la Lega, visto che appunto è la Lega che governa la Lombardia, con Salvini che oggi, fra le altre cose, ha detto: il Premier ascoltato in procura, non commento con parole mie, ha detto Salvini, ma con quelle del PM di Bergamo, cioè spettava al governo, dice, creare le zone rosse. La Regione Lombardia non aveva alcuna responsabilità. Si riferisce Salvini a quando la procuratrice di Bergamo, nei giorni scorsi, dopo aver sentito sia Fontana che Gallera, aveva detto a un giornalista, aveva fatto una domanda, ma da quello che ho sentito mi sembrerebbe che la decisione la doveva prendere il governo. Però oggi ha corretto il tiro la procuratrice, sentiamo Rota. Lei il 29 maggio aveva detto che la zona rossa era responsabilità di Roma. Si pente di quelle dichiarazioni o...? No, io avevo dichiarato che dalle dichiarazioni che avevamo in atto ci emergeva quello in quel momento. Oggi, ad oggi non ho altro da aggiungere. Ecco, Sara, quindi su questo diciamo ha un pochino corretto il tiro, però al di là di tutto, al di là dei botte e risposte, delle accuse reciproche, eccetera, dal punto di vista dei magistrati già dalla prossima settimana dovranno fare un po' il punto, no, della situazione, Sara. Sì, sì, perché ovviamente più che correggere il tiro, diciamo, si muove con cautela, poi al di là delle nostre anche sintesi giornalistiche, la PM giustamente risponde sulla base di quanto emerge dall'interrogatorio, scusate, poi non è un interrogatorio, da un'audizione, perché testimonianza, sono, certo. Sono persone informate dei fatti, quindi anche atti dovuti. Chiaramente al di là di quello che poi emergerà anche sulle responsabilità a chi spettava o meno, e lo ricordo, siamo sempre in una fase un po' magmatica perché in ogni caso in Italia di lockdown non ne abbiamo mai visti prima, quindi anche stabilire davvero a chi spettasse, a mio avviso, è complicato. Ho vissuto la cronaca in quei giorni e posso dire che nessuno capiva bene dove iniziasse l'autorità del governo e dove quella delle regioni. È stata poi frutto di un'interpretazione che è arrivata un mese dopo, che tutto quello che era chiusura, zona rossa e militarizzazione delle aree spettava al governo, anche ovviamente comprensibilmente lo direbbe la logica, ma poi le autorità regionali avevano la possibilità di stringere ulteriormente, quindi non allargare ma stringere, ricorderete, sì. Potevano inasprire le misure ma non aggirarle. Quindi è stato comunque anche questo frutto di un'interpretazione giuridica arrivata in fieri, perché evidentemente non ci sono casi precedenti. Detto questo, secondo me la prossima settimana si dovrà arrivare a un punto per due ragioni, perché da una parte, se si arriva a qualche conclusione anche con qualche rilevanza penale, in parte gli atti, se poi ci sono delle responsabilità del governo, dovranno essere inviati a Roma, quindi il fascicolo dovrà essere aperto da un'altra procura che è quella di Roma, e magari Bergamo proseguire su un altro filone più concreto, limitato, si fa per dire limitato, ma intendo dire come circostanza penale, che è quello delle morti nelle RSA, nelle residenze bergamasche, poi anche la chiusura dell'ospedale di Alzano, ricorderete, dove il 22 sono stati rilevati i primi casi di coronavirus, fu chiuso per un paio d'ore, poi riaperto su volontà, questo sì, della regione Lombardia, che dicono aveva avuto delle rassicurazioni sulle sanificazioni. Quindi magari questi due filoni proseguono a Bergamo, e poi la mancata zona rossa, argomento molto più vasto, complesso e, se volete, anche magmatico, appunto, potrebbe ad arrivare a Roma, ma insisto a dire che è magmatico, e questo sì. Significa che l'atto penale e l'atto politico sono due cose che potrebbero poi scontrarsi, perché se penalmente posso, ad esempio, oggi ragionavamo, diciamo, tra colleghi su questo punto, anche con alcune fonti di giudiziaria, che si potrebbe far valere l'articolo 40,2 dell'articolo penale, che dice che chi non impedisce un fatto grave in qualche modo lo cagiona, lo provoca. Dall'altra parte è anche vero che incardinare questa circostanza all'interno del codice penale non è facile, perché l'atto politico attiene a una valutazione e a una a un soppesare degli eventi molto più complessa, in cui non ci sono colpevoli ma ci sono responsabili. Le valutazioni politiche tengono presente di tutta quanta una complessità, come quella che diciamo appunto delle imprese. È vero che le imprese fecero pressione per non chiudere, può darsi che Confindustria Lombardia avesse fatto pressioni, però è un reato no utilizzare il ruolo di una lobby associativa per fare delle pressioni, può darsi che sia improprio, può darsi che in un momento in cui non c'è stata abbastanza capacità di capire dove si stava andando, fu un atto che oggi giudicheremmo sbagliato, però va anche detto che in quell'area ci sono gli occupati, le imprese non sono un gota nascosto di manager, ma sono gli occupati e una grande fetta di PIL italiano, quindi magari si aveva la paura di provocare dei danni all'economia del paese. Valutazioni che furono fatte in quel momento, sbagliate o giuste, ma attengono a un altro piano, che verranno giudicate al limite dall'opinione pubblica e dagli elettori, ma che potrebbero non essere riassumibili in una sentenza. Questo non so se mi sono spiegata. Poi ci sono dei fatti, l'ospedale, a mio avviso, di Alzano e l'RSA, lì ci sono già degli indagati e ci sono anche dei presunti reati, che sono l'epidemia colposa e l'omicidio colposo. Senti, sentiamo anche che cosa ha detto oggi a 24 mattino qui a Radio 24 il sindaco di Nembro, Cancelli. Sentiamo. Sicuramente in quel momento è mancato qualcosa, che era questa coesione solidale dei due livelli istituzionali che gestiscono la salute per diritto costituzionale, che sono appunto il governo della Lombardia. È giusto andare a fare la ricerca delle responsabilità, però quello che dobbiamo fare è sicuramente imparare dagli errori che abbiamo fatto, dalle scelte che sono state ritardate, da quelle che sono state le nostre impreparazioni, anche la nostra sottovalutazione. E poi ha anche detto, fra le altre cose, il sindaco di Nembro, Cancelli, regione e governo si sono attesi a vicenda. Tutti i due livelli avevano la responsabilità di lavorare insieme e decidere insieme quelle che erano le strategie che si dovevano adottare in quel periodo. E questo è che è mancato, cioè ognuno probabilmente ha atteso che qualcun altro facesse un pezzo, ma tutti e due erano strettamente coinvolti. Oh, intanto Conte ha detto: io ho chiarito tutto, ho ribadito di aver agito in scienza e coscienza in quei giorni in cui tutta la Lombardia valseriana i contagi schizzavano in maniera esponenziale, ho chiarito tutti i passaggi nei minimi dettagli. Quindi a questo punto, Sara, anche se vedo diversi ascoltatori che dicono colpa mia, colpa tua, alla fine qui non si arriva a niente, sarà compito, come dicevamo, dei magistrati a un certo punto tirare le somme, insomma, nei prossimi giorni, no? Sì, però poi ribadisco, a volte si vogliono cercare dei colpevoli ed è giusto farlo. Purtroppo in un caso di questo tipo bisogna anche dire che se la colpa è di qualcuno, anche della scarsa lungimiranza politica, dell'assenza di esperienza, della colpa di non aver seguito un piano pandemico, è difficile però trovare un solo responsabile. Forse appunto le persone che hai fatto sentire dicono una parziale verità, ma è una verità, cioè è mancata anche una coesione, la sensazione di andare nella stessa direzione. Poi posso dire un senso di responsabilità della politica, perché un politico forte, forse anche con le spalle coperte, lungimirante, poteva anche forzare una decisione che non spettava magari formalmente ad una istituzione, ma poteva in qualche modo avventurarsi, perché era comunque una situazione d'emergenza forte, quindi sì, insomma, però ricorderò che in quelle ore esattamente non si capiva nemmeno bene quanto fosse di emergenza e quanto ognuno poi guardasse al piccolo interesse. Questo è vero, quindi forse che cosa manca? Manca una politica più adulta e manca anche l'idea che siamo un unico paese e non tanti piccoli stati che lottano tra loro. Questo sì, si dovrà imparare. Purtroppo a volte Speriamo, la ricerca Sara. Del colpevole fa perdere di vista l'insieme della situazione. E l'interesse nazionale, chiaro. Sì. Grazie Sara Monaci, grazie e buon lavoro. A voi. Ciao Sara. Adesso come sempre ci prendiamo una piccola pausa di riflessione, di respiro, voi continuate con le vostre riflessioni, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp, dove per esempio scrive Giuseppe: tanta solidarietà alle donne del calcio, a tutte le donne che sono sempre messe in secondo piano, neppure il Covid ha smosso le brutte abitudini del passato. Dice Giuseppe a proposito appunto del calcio femminile che non è partito, ci aveva spiegato nei giorni fa Dario Ricci che la FIGC avrebbe voluto far partire soltanto le squadre principali del campionato di Serie A femminile, però solidali tra di loro tutte le squadre hanno detto no, dobbiamo partire tutte o nessuna, e alla fine quindi non è partita nessuna. Secondo il nostro commentatore di calcio aveva detto: beh, io avrei preferito esserci comunque al posto loro, anche se poche, però poi la situazione insomma evidentemente non presentava le condizioni, e poi c'è ancora tanta strada da fare per portare le donne italiane del calcio al professionismo come meritano. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, dove siete? Ma certamente al posto giusto, nel momento giusto, se volete, con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. I vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 che è il numero per i vostri WhatsApp. E a proposito, parleremo tra pochissimo appunto di vacanze, di orientamento delle italiane e degli italiani, di stanze, incertezze, esigenze, eccetera, eccetera, a proposito appunto di quest'estate ormai alle porte. E dice questo ascoltatore: il prossimo weekend prenotato a Agriturismo Italia, Parma, dice, non una vacanza ma un buon inizio. Beh, ci mancherebbe, l'Italia è tutta bella, naturalmente anche Parma è bellissima, poi gli agriturismi in Italia sono una vera gioia per rilassarsi. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate da te, sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, mare, mare, sai che ognuno c'ha il suo mare. Eh sì, diciamo, la voglia di vacanze c'è, in particolare la voglia di mare, ognuno dentro al suo mare, e è un sogno raggiungerlo, specialmente dopo un lungo periodo così buio che abbiamo vissuto, senza contare appunto tutti quelli che non ci sono più, le loro famiglie. E quindi che estate sarà, tra incertezze e preoccupazioni del settore del turismo, tra appunto il desiderio di finalmente godersi delle vacanze, ma scopriamo al momento, con l'estate alle porte appunto, quali sono queste intenzioni e le tendenze di italiane e italiani. Lo scopriamo con l'indagine di Demoscopica, la società che da 20 anni realizza ricerche economiche e sociali, indagini di mercato, sondaggi d'opinione per istituzioni pubbliche e private, sull'identikit, questa indagine del turista post-Covid-19. Ne parlo proprio col presidente di Demoscopica, che è Raffaele Rio. Buonasera, Rio. Buonasera, buonasera. Allora, anticipo solo che poco più da questa indagine, poco più della metà degli italiani, quindi il 51%, ha deciso di andare in vacanza nei prossimi mesi, ma solo il 5,5% ha già prenotato. Come mai, Rio? Forse perché appunto fino all'ultimo, tra aperture, tra alcune regioni che non si capiva bene come si organizzavano, se bisognava avere il passaporto sanitario oppure registrarsi, eccetera, eccetera. Quindi come mai solo il 5% al momento, guardi, che siamo a metà giugno? Sì. Una motivazione è sicuramente quello che ha appena accennato. Un'altra è che noi, dopo il lockdown che abbiamo ricevuto, adesso dobbiamo in qualche modo, che abbiamo in qualche modo anche subito, giustamente e correttamente rispetto all'emergenza sanitaria, adesso dobbiamo superare quello che è il lockdown psicologico, che è un momento molto importante. Per cui dalla nostra indagine, dal nostro sondaggio, emerge proprio un paese che di fatto è spaccato in due. C'è un paese che ha rinunciato alle vacanze, parliamo di circa il 49%, cioè di circa 25 milioni di italiani, e sul versante opposto, se vogliamo vedere cosa che a me piace fare, soprattutto in questo periodo il bicchiere mezzo pieno, parliamo invece di 26 milioni, il 51% di italiani che invece ha deciso comunque di prenotare. E questo è un elemento importante, peraltro ascoltando la canzone Mare, Mare, Mare mi viene in mente proprio l'identikit del turista, perfettamente. Qual è in Italia? L'identikit del turista è una lavoratrice, un lavoratore dipendente di età compresa tra i 36 e i 64 anni, che ha un reddito annuale superiore a 40.000 euro, quindi un reddito diciamo medio alto, preferibilmente con un titolo di studio elevato, opta per una vacanza fuori regione ma non all'estero di una o due settimane, meglio se al mare appunto, nei periodi estivi luglio-agosto, in coppia, in famiglia, quindi prevale molto la tradizione, pernottando in una casa di proprietà o presa in affitto. Questo è un altro elemento diciamo da post-Covid. Ma quindi più che in albergo, in casa in affitto? Sì, prioritariamente 4 italiani su 10 che hanno deciso di andare in vacanza preferiscono diciamo il cosiddetto fai da te, quindi casa in affitto, case di proprietà della famiglia, ospite di parenti ed amici, ma non disdegnano evidentemente sia comunque il comparto alberghiero, nel 35,2% dei casi, e sia nell'ex alberghiero, il 23,3%. Quindi sono elementi importanti. Ovviamente una vacanza che poi deve fare i conti anche con la sicurezza, perché e certo, diciamo, misure che bisogna... il mantra è esatto, è una vacanza in sicurezza. Questo sia per appunto i luoghi ricettivi e sia anche per quanto riguarda le spiagge. Poi bisognerà ancora, non si è capito bene come organizzarsi, a parte le distanze tra un ombrellone e l'altro, 10 metri quadri totali che ognuno deve avere a disposizione, però poi si porterà la mascherina, non si porterà. Ma al di là di questo, Rio, invece tornando tra chi rinuncia a partire, vedevo dalla vostra indagine che il 24,9% lo fa appunto per paura, per timore, e il 15,3% dichiara di non avere le possibilità economiche. Da chi è formato questo come categorie sociali, professionali, lavorative, questo 15%? Ma guardi, innanzitutto il 15,3% è bene precisare che sono numeri importanti, perché parliamo di circa 8 milioni di italiani, quindi che non vanno in vacanza. Una fetta consistente della nostra popolazione. Beh, chi va a colpire? Va a colpire prioritariamente le categorie in qualche modo indebolite, fiaccate dal tradizionalmente più deboli. Penso per esempio ai disoccupati o penso per esempio ai pensionati. Questo emerge dal sondaggio. Ma la cosa importante, diciamo nuova rispetto a questo periodo trascorso, sono le categorie dei commercianti, dei liberi professionisti, dei datori di lavoro, cioè sono tutte categorie che sono in qualche modo che hanno subito in qualche modo anche e più significativamente rispetto agli altri il peso diciamo del post-Covid, dell'epidemia sanitaria, che poi è diventata in qualche modo ha avuto una ripercussione economica molto rilevante. Questo è un po' il dato che emerge. Quindi ci sono delle categorie che più di altri hanno subito questo momento, e ovviamente lo riversano anche poi nei comportamenti di acquisto e nelle decisioni o nelle non decisioni di consumo turistico. Insomma. Raffaele Rio, e per coloro che invece hanno scelto di fare la vacanza, qui dicevamo un 51%, solo il 5% anche sottolineava hanno deciso dove andare, e da queste prime decisioni prenotazioni, quali sono le regioni, i luoghi insomma più gettonati, le mete? Guardi, Sicuramente le regioni a forte trazione balneare, penso in ordine diciamo di ranking, di graduatorie, di preferenze, ecco, manifestate alla Sicilia, alla Toscana, alla Puglia, alla Calabria e poi per esempio al Trentino, che non è una regione balneare ma è una regione che si inserisce perfettamente in un altro prodotto, diciamo, magnifiche turistico. Passeggiate nel verde, esatto, parchi, montagne, terre, certo. Montagne, insomma, tutto ciò che può essere in qualche modo alternativo al balneare. La Toscana, penso al mare, ma penso anche molto ai luoghi d'arte, alle città d'arte, ai borghi, certo. Alla cultura. Quindi, diciamo, sono tutte le prime top 5, sono tutte destinazioni che in qualche modo rappresentano i principali prodotti turistici o le scelte turistiche degli italiani. Quindi senta, questo è, sì, è una coerenza, diciamo, con quanto emerso. Quindi, non so se me l'ha sfuggito il dato, la maggior parte di questo 51% comunque in Italia, di chi ha deciso? Assolutamente sì, guardi, prevale, se vogliamo usare l'espressione nazionalista, cioè chi trascorre italiano, che trascorre vacanze in Italia, guardi, il 92,3%, cioè oltre 9 italiani su 10 che hanno deciso di trascorrere le vacanze, lo faranno nel loro paese. Soltanto il 7,8% ha deciso per una vacanza, diciamo, extra confini italiani. Quindi prevale comunque un turismo abbastanza autoctono, ma in qualche modo era anche prevedibile. Questa indagine lo conferma per tutto ciò che, insomma, abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Senta, quindi diceva, nella classifica delle mete più gettonate, Sicilia, Toscana, Puglia e poi Calabria, Trentino. Rispetto alle vostre indagini, corrispondono alle mete preferite anche degli anni precedenti o questa volta, non so, c'è una particolare novità? Ma guardi, in qualche modo sì, perché anche in questa circostanza, la post-Covid, come periodo, prevale comunque la tradizione. Cioè, da un lato c'è un lockdown psicologico e quindi qualcuno ha deciso, molti hanno deciso di non andare, ma dall'altro c'è anche un'euforia da viaggio. È evidente che l'attrazione balneare è sempre stata una tradizione molto forte nei comportamenti di consumo turistico e quindi, come da tradizione, le regioni, per esempio, del Mezzogiorno, alcune regioni del Mezzogiorno a forte trazione balneare, rappresentano comunque un core nella scelta dei turisti molto rilevante e molto significativa. Quindi da questo punto di vista non mi colpisce particolarmente il dato, insomma. Rio, per chiudere, il periodo, già in giugno stanno partendo, più agosto il mese classico? Guardi, il 70% si concentra, anche qui la tradizione, si concentrerebbe su luglio e agosto. Un 21% sceglierebbe settembre, quasi nessuno giugno, molto basso. Questo, ecco, è un dato da post-Covid, è una conseguenza da post-Covid. E per i prossimi mesi quello che noi abbiamo notato è che si aspetta in qualche modo anche di capire come ci si rapporta poi con i paesi, diciamo, extra italiani rispetto anche ai corridoi che si stanno creando, che si stavano creando i cosiddetti corridoi turistici. Quindi secondo me l'apertura complessiva anche delle frontiere europee probabilmente modificherà, io me lo auguro, anche un po' i comportamenti di consumo e proverà a destagionalizzarli, insomma, una stagione un po' più, in un periodo un po' più diluito e più lungo. Questo io me lo auguro perché è importante per il sistema turistico italiano. Certo. Speriamo che sia un'ottima estate per tutti. Grazie Raffaele Rio, sì. Presidente del Moscopio. Grazie a lei, buona serata. Grazie buona serata. Lei. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ad esempio, vedo, a proposito di quello che si diceva prima con il presidente di Demoscopica sulle tendenze, gli orientamenti degli italiani per quanto riguarda le vacanze e anche poi come si comporteranno gli altri paesi, vedo che la Francia dice che un test per il Covid-19 sarà obbligatorio a luglio-agosto per chi voglia recarsi nei territori francesi di oltremare, ma non dovranno essere più sottoposte a quarantena le persone in arrivo, l'ha annunciato oggi il Ministero francese per i territori di oltremare. Adesso però, con il nostro Carlo Genta, che ritorna, sta guardando per noi la partita di Coppa Italia Juventus-Milan, avevamo visto proprio ci eravamo ritrovati, Carlo, proprio nel momento in cui Ronaldo stava facendo il calcio di rigore, ha preso il palo e quindi la partita mi pare che prosegua 0-0, questa prima partita simbolica, guarda, di ripresa della Coppa Italia maschile. Sì, Roberta, 0-0, sta finendo ora primo tempo, dopo 3 minuti di recupero che sono stati concessi, ci siamo collegati proprio nel momento più intenso, perché ti ho raccontato in diretta il rigore di Ronaldo che ha colpito il palo ma in quella stessa azione poi, ti accennavo, è stato espulso un giocatore del Milan, cioè Rebic, quindi Milan che gioca in 10, sempre 0-0. Ti dico, è un, come staranno vedendo un milione di italiani in questo momento, è una partita verissima di calcio, anche piuttosto gradevole, Juventus che gioca a ritmi molto alti, Milan che è ridotto onestamente ai minimi termini tra squalifiche preesistenti, espulsioni, eccetera, eccetera, e ovviamente inferiorità rispetto a questa Juventus stellare. Beh, 0-0 però è una partita molto divertente. Se deve esserci uno spot, almeno per questo primo tempo, per il ritorno dello sport giocato, è un bello spot, devo dire, quasi alla faccia di tutti quelli che dicevano ma senza spettatori in questa situazione sarà una roba triste, sarà invece tutt'altro che triste, meno male caro Carlo. Senti, però una notizia importante di oggi è che in base alla richiesta della Federcalcio, che è stata accolta dal Comitato Tecnico Scientifico, se ci sarà nelle squadre un giocatore positivo non ci sarà lo stop per tutta la squadra come invece era previsto fino a poco tempo fa, no Carlo? Questo era uno dei grandi punti. Da bravi italiani ci siamo arrivati nel pomeriggio della prima partita, insomma, a cambiare questa disposizione, che praticamente in caso di un giocatore positivo i giocatori sono controllati in maniera costante proprio per protocollo. Ebbene, prima di oggi pomeriggio una sola positività avrebbe in pratica bloccato tutta la squadra e quindi l'intera ripartenza, l'intero campionato. A gran voce si chiedeva, a partire dalla Federcalcio, la variazione di questa normativa, come d'altra parte è all'estero, dalla Germania dove già si gioca da un po' a pallone alla Spagna dove si è ricominciato ieri sera, all'Inghilterra dove si sta per ricominciare, insomma vengono trattati in maniera diversa questi casi, quindi dovesse esserci un positivo sarebbe isolamento per il singolo giocatore o componente della squadra o dello staff, ma non per l'intera squadra, che verrebbe testata in maniera molto, molto stringente, ma potrebbe continuare la sua normale attività, come è giusto che sia da altre parti, Roberto. Senti, invece c'era anche una notizia che riguardava la Formula 1, avevo visto, Carlo? Ma la Formula 1, così come Moto Mondiale, riprenderà a luglio, Formula 1 il 5 di luglio dall'Austria, il Moto Mondiale, ed è stato reso noto ieri il calendario, dal 19 di luglio in Spagna. Tra l'altro Moto Mondiale saranno due appuntamenti, questa è la notizia di oggi, abbiamo sentito anche il governatore della regione Emilia Romagna, due appuntamenti a Misano a settembre, quindi si va anche lì verso una ripresa. Quanto alla Formula 1, ci sono prove tecniche di ripresa con i nuovi protocolli, le nuove normative. Sarà ovviamente tutto per il momento a porte chiuse e a scartamento ridotto, però anche lì si va verso una ripresa internazionale dell'attività. Ovviamente lì c'è l'ulteriore variante dei continui viaggi tra un paese e l'altro, ma questo è fisiologico per quanto riguarda quel mondo. Chiaro. Grazie Carlo Genta. Ciao caro Carlo e buona, ciao, buon proseguimento di partita. Abbraccio. Un abbraccio a te. Ciao Carlo. Here comes the sun, and I say it's all right. E se lo dicono i Beatles, che arriva il sole, lo può dire anche il nostro Paolo Corazzoni, Trebimetio, non è vero Paolo? Ma cioè, no, poterlo dire lo posso dire anch'io, ti mancherebbe, è ovvio. Lo devi certificare, certificare. Ciao. Buonasera Roberta, poi ciao, te lo dicono i Beatles, però in realtà bisogna avere ancora un po' di pazienza. Allora guarda, sarà un weekend questo in cui il sole lo vedremo, per carità. Ah beh, in fotografia? Regioni meridionali sarà proprio un bel weekend, beh, a finora addirittura 30 gradi in Sicilia, in Puglia, quindi al sud la situazione è buona. È il centro nord che avrà ancora dei temporali di passaggio, però saranno di passaggio stavolta, quindi domani partiamo benino, ma poi domani saranno le regioni di nord ovest che tra pomeriggio e sera, quindi Piemonte, la Liguria, la Lombardia vedranno dei temporali, ma anche la Toscana, la Sardegna e domani sera pure il Lazio, quindi arrivano da ovest e queste sono le prime zone che prendono domani. Domenica invece si spostano al nord-est e sul medio Adriatico, però in tutti i casi sono appunto di passaggio, quindi per tutti una giornata di sole c'è, come dire, però dobbiamo fare i conti ancora con questa equazione. La cosa tra l'altro fastidiosa è che settimana prossima ci risiamo, altra settimana di equazioni temporali, guarda, non quando eravamo tutti chiusi in casa, un gran sole che ti abbronzavi sui balconi e così, vabbè, insomma, le cose vanno in questo modo. Però ecco, l'ultima cosa, ti dirò che è normale anche, che il passaggio primavera-estate faccia questi scherzetti, cioè non è la prima volta che giugno ci fa dannare, però aspettiamo il solstizio che quest'anno cadrà alla fine del 20, quindi praticamente dal 21 parte l'estate e da lì ci sono buone speranze perché finalmente arrivi l'alta pressione. Dai. E che parta una volta per tutte. Grazie al nostro Paolo Corazzon di Trevi Meteo, buon tempo a te comunque sia, caro Paolo. Grazie, a ben presto. Ciao Paolo. Vi ricordo che appunto la prossima settimana non ci sarò per delle ferie forzate che devo fare, perché come tutte le aziende stanno chiedendo un po' di smaltire dopo il lockdown delle ferie arretrate. Vi lascerò però nelle mani della mia collega Valentina Furletto. Poi ci sarà anche martedì, notte prima degli esami, che sapete questa maturità così particolare con Federico Taddia, no? Così eccezionale che nessuno potrà dimenticare. E poi comunque ci risentiamo lunedì 22, ma anche tra pochissimo, proprio alle 22.